Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Se è in arrivo una tecnologia completamente nuova per il trattamento dei rifiuti organici e quindi della cosiddetta raccolta dell'umido. Si chiama decarbonizzazione idrotermale ed è stata messa a punto da due imprese italiane che a partire da quest'anno inizieranno anche ad applicarla costruendo i primi impianti proprio sul territorio nazionale. Queste due imprese si chiamano Creo SRL e Ingelia Italia, che per aver sviluppato la decarbonizzazione idrotermale hanno anche ricevuto il certificato di eccellenza della Commissione Europea. Ci facciamo spiegare tutto da Massimo Manobianco, che è vicepresidente e direttore di Ingelia. Buonasera Manobianco. Buonasera a lei. Allora, senta, come funziona, che cos'è questa decarbonizzazione idrotermale? La decarbonizzazione idrotermale è un processo industriale che è stato messo a punto dal gruppo Ingelia con la nostra capogruppo spagnola, e sostanzialmente riproduce in ambito industriale un fenomeno naturale che è quello della carbogenesi. Sostanzialmente in adeguate situazioni di pressione e di temperatura riusciamo a modificare il rapporto tra carbonio e idrogeno a favore di quest'ultimo, e da qui il termine di decarbonizzazione idrotermale. Cioè, che è quello che appunto succede quando si forma il carbonio, quando si forma in parte anche il petrolio, insomma, ma in particolare il carbone. Ci sono delle biomasse, per esempio delle antiche foreste, che rimangono sepolte per milioni di anni, vengono eliminati l'idrogeno, l'ossigeno che sono presenti in questa biomassa, resta solo il carbone, che è quello che poi noi tiriamo fuori ed estraiamo molto tempo dopo. Voi rifate questo processo, ma molto più velocemente. Assolutamente, lo facciamo in un tempo estremamente ridotto, in 8 ore riusciamo a trasformare il rifiuto organico umido in un carbone e sostanzialmente riusciamo a ottenere quello che in natura evidentemente succede appunto in qualche decina di milioni di anni. Ecco, vengono fuori, dicevamo, buttiamo dentro il rifiuto umido e tiriamo fuori che cosa? Carbone, una cosa sostanzialmente un tipo di lignite e poi anche qualcos'altro però. E poi abbiamo praticamente una fase liquida, l'acqua di processo, all'interno della quale troviamo disciolti tutti i bionutrienti che erano contenuti nel rifiuto organico trattato. Quindi andiamo a recuperare tutta quella parte che ha proprietà fertilizzanti da dedicare poi chiaramente alla valorizzazione in campo agronomico. È chiaro, tirate fuori praticamente una specie di concime liquido che è acqua ricca. Sì, in realtà tecnicamente sarebbe un concime complesso perché ha presenti tutti i 3 bionutrienti principali, azoto, fosforo e potassio. Dunque, quali sono i principali vantaggi rispetto a processi consolidati, abituali come il compostaggio? I principali vantaggi sono impianti molto compatti, modulari, da inserirsi puntualmente in qualsiasi area industriale anziché in aree delocalizzate come gli impianti tradizionali. Ecco, avevamo fatto due conti prima, 5 volte più piccoli come richiesta di area, diciamo. Esattamente, e la velocità del ciclo del processo, che è estremamente rapida e che permette dunque anche lo stazionamento in forma putrescibile del rifiuto per pochissime ore, con una conseguente gestione efficientissima di quelli che sono i principali problemi legati alle maleodoranze di questo genere di rifiuto, il che ci permette di inserirsi a fianco di qualsiasi impresa in area industriale. E quindi anche di inserirsi dentro nei centri abitati sostanzialmente, dove certo, sarebbe impensabile. Esattamente, un ulteriore punto di forza che dobbiamo sottolineare è che questo genere di tecnologia ha un'efficienza e un'efficacia tale per cui non ha bisogno di incentivi statali per essere sostenuto. Ok, d'accordo. Contrariamente agli impianti tradizionali. Senta, primi impianti sono in arrivo, abbiamo detto, già a partire da quest'anno, dove e quando? I primi impianti sono in corso di autorizzazione, sono in Toscana, uno a Lucca e uno a Piombino in un'area produttiva ecologicamente attrezzata, proprio alle spalle del porto. Un ulteriore impianto in fase di sviluppo in Basilicata e un altro ancora a Lecce, mentre poi abbiamo circa 12 trattative aperte a livello nazionale. Ecco, senta, con questa tecnologia un'ultima domanda, si trattano solo rifiuti organici oppure anche altro? Solo la raccolta dell'umido cittadino per capirsi o anche altro? No, guardi, l'impianto ha una flessibilità diciamo totale in ingresso, per cui può trattare la frazione organica dei rifiuti urbani, ma anche i fanghi biologici, ma anche il digestato, oppure lo sfalcio e potature. Quindi tutto quello che ha matrice organica può essere diciamo funzionale ad alimentare l'impianto, anche in mix. Va bene, grazie ancora Massimo Manobianco. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.